America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Grande turbolenza sui mercati, l'abbiamo vista ieri, per una questione che secondo me merita una attenta analisi, e cioè la comunicazione, il processo di comunicazione della Banca Centrale Europea rispetto ad esempio al processo di comunicazione della Federal Reserve di New York. The possibility remains that the recent economic weakness may prove more persistent than expected, and that deflationary risks might reemerge, implying a need for additional policy support. Chi avete sentito è Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve di New York. Pensate che parlando qualche tempo fa con dei funzionari della Banca Centrale Americana, mi dissero che per loro la comunicazione era l'elemento centrale della loro politica monetaria. Ecco, io non vorrei soffermarmi adesso sulle questioni dell'incontro di Bruxelles, sui bracci di ferro, sulla Gran Bretagna che è contraria, sul pericolo che sta tuttora correndo l'euro, se le misure sono o meno sufficienti, perché c'è una chiara divisione tra quello che è il ruolo dei governi e quello che è il ruolo di una banca centrale. Vorrei soffermarmi invece in questo confronto, visto che vi parlo dell'America, con il modus operandi di un'istituzione centrale americana rispetto a quello della Banca Centrale Europea. Vi dicevo che questo funzionario mi disse che per loro la comunicazione era un aspetto centrale della politica monetaria. Come operano? Fanno filtrare attraverso fonti, attraverso discorsi, attraverso prese di posizioni, attraverso audizioni in Parlamento, dicevo, i vari protagonisti della politica monetaria americana, dal governatore ai consiglieri, fanno filtrare quelle che sono le loro scelte, quelli che sono e saranno i loro orientamenti. Nel momento in cui si debbono stabilire dei parametri precisi, nel momento in cui ci sono delle decisioni da prendere, nel momento in cui il mercato è agitato, ecco, la banca interviene facendo capire che cosa farà, e il mercato reagisce immediatamente, reagisce perché si fida di quel che viene dalla Banca Centrale Americana attraverso fonti anonime, attraverso indiscrezioni, ma è un messaggio in genere piuttosto chiaro. Per esempio, quando si trattò di fare un quantitative easing, la banca lo anticipò addirittura 6 mesi prima. A quel punto che succede? Che il mercato reagisce e comincia a scontare la decisione della Banca Centrale Americana, che sarà annunciata soltanto tanto molte settimane o addirittura alcuni mesi dopo, quindi c'è un discreto margine di tempo per poter accomodare, diciamo così, l'impatto di questa innovazione sul mercato. La Banca Centrale Europea ha cercato di introdurre delle misure di trasparenza, ha cercato di introdurre un maggior dialogo anche con la stampa, l'abbiamo visto nella giornata di ieri con la conferenza stampa di Mario Draghi, ad esempio, però non è riuscita ancora a organizzare quel rapporto col mercato che diventa essenziale per poter manovrare quelli che sono gli elementi centrali del suo processo decisionale fra gli operatori, fra i decision maker e fra coloro che in qualche modo fanno opinione pubblica. Ecco, questo la Banca Centrale Europea ancora non riesce a farlo. Io mi auguro che Mario Draghi, dopo la lezione che ha imparato ieri, possa farlo. Aggiungo, ci sono alcune indiscrezioni che dicono che Draghi lo ha fatto apposta a tirare la corda per esercitare pressioni su leader europei, eccetera eccetera. Non ci credo, devo dire, l'ho detto più volte, non credo alle conspiracy theories, all'idea che ci possano esserci dei complotti o dei terzi o quarti fini. Secondo me quello che è successo è molto semplice: Mario Draghi ha espresso una sua posizione durante la sua testimonianza all'Unione Europea, la posizione è coerente tra l'altro con quella che ha espresso oggi, però capitava in un momento in cui il mercato si aspettava o voleva comunque leggere che da parte della Banca Centrale Europea ci fosse la disponibilità a diventare uno sportello di ultima istanza per i governi, non solo per le banche, ma per i governi. Ecco, Draghi ieri, solo ieri, ha chiarito che lo sportello di ultima istanza è per le banche e ha annunciato una misura secondo me molto importante, e cioè ha prolungato a 36 mesi il periodo in cui le banche potranno indebitarsi in modo illimitato a un tasso di interesse dell'1%, perché la Banca Centrale Europea ieri ha abbassato il tasso di riferimento dall'1,25 all'1%, prima era addirittura all'1,50, quindi in tempi brevi, Draghi ha portato dall'1,50 all'1% il tasso, questo aggiunge comunque liquidità. Quindi si aggiunge liquidità coi tassi, si consente un periodo più lungo di 36 mesi a un tasso molto più vantaggioso, si diminuiscono e si rendono più flessibili comunque le richieste di garanzie a fronte del prestito che viene contratto da una banca con l'istituzione centrale. Ecco, queste misure da sole dovrebbero essere rassicuranti. Non lo sono state. Perché? Perché il mercato si è focalizzato sul messaggio contraddittorio, apparentemente contraddittorio, emerso dalla Banca Centrale Europea. Ecco, per me questo resta un aspetto centrale che dovrà essere risolto, perché i mercati sono una presenza reale, la banca deve saper dialogare con questi mercati, la Federal Reserve lo sa fare, lo fa bene. Io credo che su questo almeno un po' di convergenza con Washington è importante. Sono in linea con Adolfo Laurenti, economista alla Mesirow Financial a Chicago, e così gli chiedo se la pensa in questo modo. Non era meglio per Draghi comunicare subito invece di aspettare una settimana? Lei la vede questa differenza di comunicazione fra Fed e Banca Centrale Europea? Ma non ci sono dubbi che ci sono grosse differenze nel modo con cui la comunicazione è condotta dalla Federal Reserve e la Banca Centrale Europea, che soffre ancora di una certa resistenza a sfruttare le vie di comunicazione del mercato e gli strumenti di moral suasion. In termini di quello che può essere considerato, no, l'errore di Mario Draghi, io credo che a sua scusante vada una situazione molto difficile di rapporti politici all'interno del board della Banca Centrale Europea. Si sa che c'è una divisione tra falchi e colombe, e i falchi sono le espressioni di aria tedesca, molto contrari alle manovre non ortodosse di politica monetaria, e dunque non mi sorprenderebbe se tra le dichiarazioni di Draghi al Parlamento Europeo e la conferenza stampa ci siano state delle pressioni per correggere il tiro. Però questo diminuisce la credibilità della Banca Centrale Europea e dello stesso Draghi, perché insomma nel momento in cui lui parla esprime una posizione presumibilmente già concordata. Questo dovrebbe essere il caso, e non c'è dubbio che se questo sarà il risultato ci sarà un prezzo da pagare in termini di credibilità. Credo che il mercato si aspettasse di più e maggiore trasparenza. Sono d'accordo con lei che quello che la Banca Centrale Europea sta facendo è di fatto una forma di quantitative easing, come sarebbe chiamata qui negli Stati Uniti. Il grosso problema di credibilità e di comunicazione è che la Banca Centrale non lo può dire apertamente. La Banca Centrale, per una serie di ragioni politiche, costituzionali, legali, deve nascondersi dietro al suo ruolo di stabilità del sistema finanziario, ma non può arrischiarsi ad assumersi un ruolo nel confronti del debito sovrano. In realtà lo fa, perché sostenere il sistema bancario europeo diventa una forma indiretta di sostegno al debito sovrano, ma deve essere fatta attraverso un sotterfugio, e purtroppo questi sotterfugi forse funzionano rispetto alle intenzioni dei politici europei, magari rispetto alla lettera dei trattati costituzionali europei, ma sono soluzioni abborracciate nei confronti del quale gli investitori istituzionali di tutto il mondo hanno scarsissima pazienza, come è stato dimostrato dalla giornata borsistica di ieri. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jay-Z sarà in concerto a New York il 6 e il 7 febbraio. Il rapper si esibirà a Carnegie Hall. Pensate che in genere ospita musica classica. Quindi dedichiamo a Jay-Z, a questo suo concerto per finanziare borse di studio per ragazzi economicamente svantaggiati, la canzone del giorno. Siamo a New York, chiamato l'Empire State. Abbiamo l'Empire State Building, e dunque di Jay-Z, Empire State of Mind. Yeah, from New York. Hey. Concrete jungle, yeah. With dreams are made of. It's nothing you can't do. Yeah. Now you're New York. These streets will make you feel brand new. The lights will inspire you. Let's hear it. You want to go to New York? I made you high. The New York. York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.